in primo piano. Buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che, come potete immaginare, dedica quasi tutta la prima pagina alla cronaca e alle analisi di quello che è successo in borsa ieri, alla borsa italiana e nelle borse europee. Il titolo è: banche e petrolio pesano sui listini, Milano la peggiore in Europa. Il riferimento, naturalmente l'avete sentito anche nei GR, era la prima giornata in cui si testava l'esito degli stress test, per l'appunto quelli di venerdì, e come avete sentito è andata male Unicredit tra quelle che li hanno superati e quella che è andata peggio, ma è andata male persino Banca Intesa, che non solo li ha superati brillantemente tra le banche italiane, ma è stata anche una delle migliori d'Europa. E allora, per capire questa cosa che intuitivamente non è così semplice, ci sono due editoriali, uno di Alessandro Plateroti, L'altalena tra razionalità e speculazione, e l'altro di Isabella Bufacchi, Oltre il caso MPS, se l'ultimo della classe diventa primo. Poi vi ricordo, oggi è la seconda giornata di Focus Estate, quell'iniziativa che ci durerà per tutto agosto, con approfondimenti giornalieri su un tema per i professionisti. Ci si concentra sul codice della strada, trovate tutte le pagine 32 e 33, tutte le novità. Domani invece si parlerà di bonus produttività e welfare aziendale. Lo schemino di prima pagina dà un'idea molto chiara di come tutte le banche, in realtà abbiamo detto in Italia, la borsa italiana, ma anche tutte le altre borse europee, come le banche sono andate. La peggiore in assoluto è stata Unicredit, meno 9,4, ma per esempio in Spagna Popular Spagnol ha perso il 5,91 e in Irlanda Bank of Ireland ha perso il 6,49. E a pagina 3 trovate un'altra analisi di Vittorio Carlini, i ribassisti di Breve che vendono i titoli bancari. Dalla prima pagina vi segnalo anche un altro articolo firmato da Giovanni Azzone, che è il rettore del Politecnico di Milano, e Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, perché si parla di innovazione. Sapete che per esempio una delle possibili destinazioni dell'area in cui si è tenuto l'Expo, che si è chiuso il 31 maggio scorso, è di destinarla o a atenei universitari, e qui per esempio appunto anche il Politecnico, o comunque a aziende che vogliono fare innovazione, start-up, e potrebbe essere un modello. Ma di questo si parla appunto di Expo, ma in generale di come si sta facendo innovazione a Milano, con la collaborazione naturalmente tra imprese e università. La grande Milano e l'innovazione che serve, e lo trovate poi l'articolo a pagina 18. La prima pagina del Corriere della Sera, come molte altre pagine, è dedicata, apre invece sui raid americani sull'ISIS, Libia. E poi vi segnalo la fotonotizia, che è solo il Corriere ce l'ha, è la foto di un uomo sfocato, in realtà perché a fuoco c'è la giraffa in lontananza. È la foto di un uomo che corre in Sudafrica, perché si è corsa questa maratona della savana, quindi classica maratona da 42 tot chilometri, che si corre appunto tra rinoceronti, elefanti e bufali. E invece sentiamo però qualche aggiornamento sul traffico. No, non, sì, ci siamo, ok, siamo pronti per gli aggiornamenti per chi non corre ma va in macchina. In primo piano. Rieccoci, ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulla prima pagina del Corriere, dove vi dicevo viene richiamato questo articolo, che poi trovate a pagina 18, di Riccardo Bruno, sulla maratona nella savana. Sono solo 300 i corridori, perché non è una maratona come le altre. Pensate, a New York credo che siano, non so, forse addirittura 50.000 i corridori, quindi 300 sono veramente pochi, però appunto è una maratona molto speciale. La Repubblica ha un titolo molto simile a quello del Corriere: Libia, bombe USA sull'IS, sullo Stato Islamico, Islamic State, dalle pagine 2-3 anche il Corriere ha tutti questi approfondimenti. Trovate un po' la cronaca di come si è arrivato a questo, perché e quali potrebbero essere gli scenari. In prima pagina la Repubblica è l'unica che ricorda che 36 anni fa, oggi il 2 di agosto di 36 anni fa, ci fu la strage di Bologna, e Carlo Lucarelli riracconta quello che è successo, ma soprattutto i misteri che ancora non sono risolti di tutte le inchieste che sono seguite a quella strage. Una strage e l'alto tradimento, l'ultimo mistero di Bologna. La Stampa, anche qui titolo molto simile a quello di Corriere Repubblica, Libia bombe USA contro l'ISIS, e qui un'analisi è con un'intervista a un consigliere politico di Hillary Clinton, che il titolo scelto per questa intervista richiamata in prima pagina di Paolo Mastrolilli è Obama fa più di ciò che dice. Questo è un po', se volete, tocca quel tema, tocca l'accusa che molti fanno a Obama, cioè di non aver avuto di fatto una politica estera. Tra l'altro adesso questo consigliere di Hillary Clinton, ricordiamo Hillary Clinton è stata segretaria di Stato, poi si è dimessa nella prima amministrazione Obama, cioè segretario di Stato è l'equivalente del nostro ministro degli esteri. Sempre dalla Stampa una fotonotizia ancora diversa, perché è un articolo che poi trovate a pagina 37, che ci racconta una spedizione per salvare quelle che vengono definite le voci delle sirene, perché queste voci strane che si sentono nel mare, che non sono ben inteso invece quei suoni che emettono le balene, questi sono suoni particolari che appunto vengono paragonati a quelli immaginati, perché nessuno li ha mai sentiti, delle sirene, e sono emessi da questi enormi mammiferi marini che si chiamano dugonghi. E sono creature, sono loro che ispirarono appunto il mito del canto delle sirene, vivono solo nelle acque costiere. Trovate questo bel reportage, molto estivo se volete, ma anche molto suggestivo, a pagina 37. Anche il Messaggero, Libia, gli USA bombardano l'ISIS, e poi con grande enfasi sul Messaggero la questione dei rifiuti a Roma, ovviamente essendo il Messaggero il quotidiano per eccellenza di Roma. Per affrontare questa questione, oltre a tutta la cronaca, le polemiche, poi vedremo, l'assessore all'ambiente Muraro ha rilasciato parecchie interviste, il Messaggero invece ha intervistato Cantone, Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ANAC, che naturalmente indaga a sua volta su tutti gli scandali dell'AMA e in generale su quelli di Mafia Capitale. Il titolo dell'intervista: troppi affari pronti a occuparci di Roma, quindi a occuparci ancora più in profondità di questa questione dei rifiuti. L'Avvenire, anche qui proprio oggi diciamo che i titoli principali sono uguali su tutti i giornali. Libia, ripartono i raid, poi visto che ieri l'Avvenire come altri quotidiani non era in edicola, si ritorna sulla giornata di domenica, quando l'abbiamo visto ieri, circa 20.000 musulmani hanno pregato nelle chiese, hanno partecipato alle messe nelle chiese italiane, poi è successo anche in Francia, comunque in Italia si calcola appunto circa 20.000 fedeli. E poi, visto che si è chiusa la giornata mondiale della gioventù, e anche in questo caso ieri l'Avvenire non ha potuto fare un vero e proprio riassunto, perché appunto l'Avvenire il lunedì non esce, oggi all'Avvenire è allegato uno speciale di 6 pagine dove si racconta tutto quello che ancora mancava. Il titolo comunque scelto per ricapitolare quello che è successo a Cracovia è un virgolettato del presidente della Conferenza Episcopale Italiana Bagnasco, che dice: dai giovani una lezione di futuro. E poi in prima pagina, e l'Avvenire è l'unico giornale che lo mette in prima pagina, se ne occupano anche altri, però c'è questa notizia che ieri il Senato ha dato il primo sì, quindi siamo all'inizio dell'iter di questa legge, però intanto c'è questo primo sì importante, visto che poi, come abbiamo sentito ieri, adesso arriva una lunga pausa per il Parlamento, con 192 sì, nessun no e 32 astenuti di Forza Italia e Lega, si è approvata, appunto c'è stato un primo sì alla legge contro il caporalato, quella pratica orrenda di sfruttamento dei lavoratori agricoli, una questione tra l'altro di cui l'Avvenire si è occupato molto. L'Unità addirittura apre su questo con il titolo "Mai più schiavi, finalmente la legge contro il caporalato". È una legge appunto che l'Unità dà tanto spazio, anche perché è sicuramente se ne parla, come detto nel sommario, da molti anni, però è il ministro per l'agricoltura Martina che ha dato un impulso a questa legge. Martina è del PD, quindi l'Unità sottolinea giustamente questo successo, anche se, ripeto, siamo al primo sì al Senato, poi bisognerà tornare alla Camera, se ci saranno dei cambiamenti ritornerà al Senato, però è un primo passo, quindi diventa un reato lo sfruttamento di chi lavora in agricoltura, e sono 430.000 si stima le persone sfruttate nei campi, che lavorano a 2 euro all'ora e non hanno alcuna tutela. Appunto il ministro Martina ha commentato: è finita un'era. Il Fatto Quotidiano Ha il titolo, diciamo, principale, quello sotto alla testata, dedicato alla Libia. Gli USA bombardano l'ISIS su gentile richiesta di Tripoli, perché è stato proprio il governo, uno dei due governi di Tripoli, cioè quello ufficialmente riconosciuto dalla maggior parte dei paesi occidentali, a chiedere ufficialmente l'aiuto degli Stati Uniti, e l'aiuto è arrivato. Il titolo principale, però, quello che spicca di più sulla prima pagina, centro pagina, è un'inchiesta che viene così titolata: consulenze e affari misteriosi di Boschi Junior e del tesoriere PD. E c'è appunto questa, nello studio di Francesco Bonifazi, entra il commercialista Emanuele, sua sorella è la titolare delle riforme, cioè Boschi Junior. Con loro c'è anche Federico Gianassi, membro della giunta di Firenze, con Nario Nardella. E, insomma, quelli che secondo il Fatto Quotidiano sono conflitti di interesse. Trovate questa inchiesta alle pagine 2 e 3. Ma un'altra inchiesta molto interessante del Fatto Quotidiano, richiamata in prima pagina, che poi trovate a pagina 9, è sul Cocorico, quella discoteca di Riccione che forse ricorderete un anno fa fu chiusa perché c'erano stati degli episodi, proprio si era trovata ecstasy all'interno, e gli inviati del Fatto Quotidiano sono andati, prima hanno fatto un giro attorno alla discoteca scoprendo che è pieno di spacciatori che offrono qualsiasi tipo di droga. All'ingresso ci sono dei controlli abbastanza severi, ma una volta dentro, di nuovo, si può comprare qualsiasi cosa. Quindi l'inchiesta, la discoteca chiusa 12 mesi fa a Riccione, che poi ha riaperto, e però la situazione pare non essere poi tanto diversa. Libero in realtà titola, prendendo spunto poi dall'editoriale del vice direttore Franco Bechis, titola su quello che è successo domenica, la partecipazione dei musulmani alle messe e i commenti di Papa Francesco sull'aereo mentre tornava da Cracovia. E il titolo è: ora il Papa esagera un po'. Francesco nega che Italia Gola siano musulmani, li paragona ai cattolici che uccidono le mogli, e sull'Occidente in decadenza parla come l'ISIS. Va bene che vuole tutelare i cristiani perseguitati, ma così minimizza i pericoli. L'editoriale poi continua a pagina 3. Vittorio Feltri, invece, il direttore di Libero, si concentra su Equitalia, perché sapete, di Equitalia si è parlato molto nelle scorse settimane. È l'agenzia dello Stato che dovrebbe riscuotere tutte le tasse non pagate. Si scopre però, si sta cercando, è molto odiata, perché arrivano le cartelle di Equitalia e spesso vanno contestate perché non sono state compilate con precisione o fanno scattare immediatamente dei pignoramenti. Insomma, non c'è neanche bisogno che ve lo spieghi. Si è parlato tantissimo delle storture, delle procedure applicate da Equitalia, che però svolge un ruolo importante, cioè quello appunto di riscuotere le tasse non pagate, sulla carta almeno in teoria questo è il suo ruolo. Si scopre, guardando i conti di Equitalia, che è molto inefficiente, e quindi Vittorio Feltri dice: basterebbe riscuotere i tributi non versati e va giù il debito. In realtà questo non succede. Cioè, poi tra l'altro sapete che anche il Premier Renzi ha toccato questo argomento, ha annunciato che Equitalia potrebbe essere eliminata già nel 2017, senza però dire da che cosa verrà sostituita, visto che, come abbiamo detto, qualcuno che riscuote le tasse non pagate, un'agenzia deve esserci. Il Giornale invece torna sulla questione economica, il titolo è: attacco ai nostri soldi, banche italiane nel mirino, e riassume gli istituti promossi dagli stress test, come abbiamo detto parlando del Sole 24 Ore, crollano in borsa per la speculazione. Un commento diciamo economico a questo, per cercare di capire appunto quello che intuitivamente non è facile da capire, cioè perché dopo una promozione a quello che veniva definito il grande test per vedere se le banche erano solide o no, è arrivata la bocciatura della borsa. E questa interpretazione sul Giornale la offre Nicola Porro, che è il vice direttore del Giornale ed esperto di temi economici. Curare la polmonite con l'aspirina. Il Manifesto, anche in questo caso, titola sul bombardamento in Libia da parte degli americani, ritorno di bomba, e la foto è quella di caccia americani che appunto magari non erano quelli che sono decollati ieri, hanno bombardato ieri, però la foto è chiaramente appunto di caccia da guerra. Al via il bombardamento USA sulla città libica di Sirte, che è quella nelle mani dell'ISIS, e ricorda il Manifesto, è la prima offensiva aerea dal 2011, anno della caduta di Gheddafi e della morte di Gheddafi. I raid chiesti dal governo governo unitario di Tripoli, le operazioni del Pentagono con l'ok di Obama. L'Italia, che il ministro Gentiloni ha detto non è coinvolta, ha però approvato. E poi il manifesto è, che anche il manifesto non era in edicola ieri, quindi molti giornali, come forse ricorderete, ne hanno parlato ieri, però torna sulla questione delle nomine della RAI. Domani, mercoledì, ci dovrebbe essere questo CDA ultimo prima dell'estate, dove potrebbero anche essere nominati nuovi direttori, soprattutto dei telegiornali TG1, TG2, TG3. Secondo il manifesto le nomine slittano ma di poco. Al TG3 scende Di Bella, che era uno dei candidati a sostituire Bianca Berlinguer, e sale invece Gerardo Greco. Vedremo, perché su altri giornali si ipotizza addirittura che queste nomine slittino. Ultima prima pagina, prima di una breve pausa, quella della Gazzetta dello Sport, che si concentra sui primi allenamenti che ci saranno oggi della Juventus, campione d'Italia, colossa Juve con la foto dell'allenatore Allegri, occhio non tutto è a colori, Allegri teme le trappole, da Marchisio fuori fino a dicembre, che apre un problema a centrocampo, ai rischi psicologici, ci sarebbe troppa euforia di questi campioni d'Italia che hanno vinto il quarto scudetto consecutivo. Ci lasciamo un attimo, ci ritroviamo tra pochi minuti. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buongiorno anche a Riccardo che mi riprende perché ho pronunciato junior e lui dice si dovrebbe dire junior. Vero, si potrebbe dire junior, ma in questo caso era proprio scritto con la J, quindi all'americana. Se fosse stato scritto con la I, sicuramente ha ragione lui, avrei dovuto leggere junior. E mi invita insomma a non usare parole straniere quando si possono usare gli equivalenti italiani, sono perfettamente d'accordo. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali e torniamo sul Sole 24 Ore, perché ci sono appunto tutte queste analisi su quello che è successo ieri, cioè le banche che avevano superato più o meno brillantemente gli stress test europei venerdì, poi ieri non sono andate bene né alla borsa italiana né in altre borse. E vi segnalo in particolare l'analisi di Vittorio Carlini, quella che si intitola I ribassisti di breve che abbattono le banche, la trovate a pagina 3 e vi leggo l'ultima parte. I trader non fanno valutazioni sui fondamentali, questi trader appunto che poi magari messi tutti insieme causano questi ribassi. Ne distinguono tra le diverse storie aziendali. Al contrario, sfruttando le piattaforme di scambio elettroniche, fanno correre le loro correlazioni tra differenti asset, comprano e vendono, spesso alla velocità della luce, su livelli di prezzi calcolati dai logaritmi. Poco importa che il price to book value delle banche italiane sia quasi inesistente, lo 0,38 contro lo 0,62 delle europee, né rileva che gli stress test siano stati positivi. Quel che conta è far girare il modello matematico, al che però sorge la domanda: a chi serve una borsa simile? E per passare insomma da una domanda che non è molto confortante, ha una notizia positiva, sempre di economia reale, questa volta non di finanza. La prima pagina di Imprese e Territori è dedicata alla meccanica strumentale, perché Luca Orlando ci racconta come il 2015 sia stato l'anno d'oro dei robot industriali. L'Italia è sesta al mondo con 6.600 unità, più di Francia e Spagna insieme e il triplo del Regno Unito. Sempre dal Sole 24 Ore, invece un'inchiesta di Gianni Trovati, che è il nostro super esperto in particolare di enti locali. Il titolo: a Roma i rifiuti più cari d'Italia. Nell'ultimo anno in effetti i costi si sono ridotti, ma rimane, pensate, una differenza del 32% su Milano, del 42% su Torino. A spingere la spesa sono anche le caratteristiche del territorio e la struttura del personale. Questa inchiesta la trovate a pagina 17, mentre a pagina 19 la nostra inviata a Rio Maria Luisa Colledani comincia a raccontarci le Olimpiadi, che iniziano esattamente tra tre giorni, il 5 di agosto. Oggi, quindi mentre aspettiamo la cerimonia di inaugurazione, ci racconta così saranno le Olimpiadi del futuro, cioè visto che di riciclo, di uso efficiente delle risorse, di qualsiasi tipo delle risorse, si parla in tutti i settori, si parla di questo anche quando si parla di Olimpiadi. E quindi si punta sul riuso degli impianti, sul coinvolgimento delle federazioni e sulla sostenibilità ambientale. Vi dicevo, il focus è stata l'iniziativa che durerà per tutto agosto del Sole 24 Ore, oggi il codice della strada, pagine 32 e 33 con tutte le novità e anche focus per esempio sul problema delle multe che si ricevono, poi naturalmente si può fare ricorso e in questo caso si può fare, ci spiega Marisa Marraffino a pagina 33, due tipi di ricorso, o dal giudice o dal prefetto, e ci spiega anche quali sono i pro e i contro di questi due iter. Cambiamo argomento dalle pagine del Corriere della Sera, torniamo sull'argomento immigrazione, perché naturalmente non ne parliamo più, perché per fortuna non arrivano notizie di nuovi naufragi, però gli sbarchi sicuramente continuano, anche perché come sempre in estate aumentano. E quindi a pagina 5 Leonard Berberi del Corriere ci racconta: sbarcano in Italia 93 profughi su 100, perché una volta bloccata la rotta spagnola e ridotti drasticamente i flussi nel corridoio balcanico, anche grazie al molto discusso accordo con la Turchia, a luglio quasi tutti i migranti sono arrivati nella penisola, e c'è proprio una mappa che fa vedere quanti sono i migranti arrivati nel periodo gennaio-luglio 2016, sono più di 250.000, gli uomini sono in maggioranza il 51%, le donne sono il 18% e i minori il 31%. Sempre dal Corriere della Sera, pagina 7, un'intervista all'ex ministro dell'economia Passera, ex amministratore delegato di Banca Intesa, ex un sacco di cose, ex anche candidato a sindaco di Milano, e che poi prima del voto in realtà si è ritirato per appoggiare Stefano Parisi. Qui poi sapete, il giovedì Passera ha presentato, e dietro di lui c'erano banche e istituti tra i quali JP Morgan, UBS, il grande istituto svizzero, aveva presentato un'offerta per salvare MPS, che poi invece, come abbiamo sentito, ha un altro piano di salvataggio. Però Passera insiste: la mia offerta per Siena era un progetto industriale. Secondo lui sono troppi 5 miliardi che verranno chiesti al mercato. Sapete che questo salvataggio è si regge su due pilastri: da una parte la ricapitalizzazione e dall'altra la cartolarizzazione dei crediti non esigibili, che vuol dire vendere questi crediti che verosimilmente non potrebbero mai essere incassati così come sono nei bilanci della banca. Abbiamo parlato ieri molto di questo scontro tra Hillary Clinton e la Russia, in particolare Putin. Hillary Clinton ha apertamente accusato non tanto i servizi segreti russi, ma proprio Putin di essere dietro questo hackeraggio delle email del Partito Democratico. E Arturo Zampaglione ci racconta quali sono, perché poi dietro a questo la Clinton ha fatto intendere che il piano sarebbe quello di Putin di favorire l'avversario di Hillary Clinton, Donald Trump. E allora Arturo Zampaglione ci racconta un po' quelli che già oggi sono i legami di Trump con la Russia, quindi ville, alberghi e oligarchi, la Russia connection del miliardario Trump, piani per acquistare hotel, vendita di immobili, soldi a Miss Universo, gli affari tra il tycoon e Mosca. Trovate a pagina 7 questo articolo. Torniamo alla questione dei rifiuti, perché a pagina 9, oltre alla cronaca e a questa polemica che c'è in questo momento tra l'assessore all'ambiente Paola Muraro, che si è scoperto essere anche stata per molti anni consigliere dell'AMA, l'azienda che gestisce l'azienda municipalizzata che gestisce i rifiuti, e aver preso in questi anni oltre 1 milione di euro di stipendio. In realtà quello che vi segnalo dalla Repubblica è un approfondimento su quello che succede all'interno, sulle gerarchie interne dell'AMA. L'azienda non pulisce ma promuove tutti. Nei primi 7 mesi di quest'anno la maggior parte degli stipendi di fascia alta ha abbondantemente superato quota 60.000. Nel 2015 ci sono state 36 promozioni, gli aumenti medi sono stati di 8.400 euro e il costo complessivo di tutte queste promozioni di un'azienda che ricordiamo ha 66 milioni di debiti sono stati 302.000 euro. Sempre dalla Repubblica, un'intervista che in realtà è anche richiamata in prima pagina ad Alessandro Baricco, che è scrittore ma anche inventore, fondatore della scuola per scrittori di Torino, è torinese tra l'altro, e sulla questione dello spostamento del Salone del Libro, che si è sempre tenuto tradizionalmente in maggio a Torino, sullo spostamento invece a Milano e in particolare al quartiere feristico di Rho, dice due saloni ma tanto vince Torino. E Simonetta Fiori appunto gli ha chiesto un parere su questo, e Baricco però resta convinto che non solo, come ha detto già, come peraltro ha già detto il sindaco di Torino Appendino, il salone resisterà, cioè non perché a Milano nasce un'altra manifestazione Torino non si farà, ma soprattutto secondo Baricco alla fine prevarrà il fascino, la formula, il pubblico di Torino. E chiede Simonetta Fiori perché è così sicuro che vinca Torino, e Baricco risponde: perché Torino è nel cuore e nella mente di chi opera nel mondo del libro, scrittori, librai, bibliotecari, lettori, insegnanti. Sarebbe come spostare la festa del santo patrono. E poi in realtà questa intervista è su quasi due pagine, quindi Simonetta Fiori chiede anche: oggi gli editori lamentano nella gestione del salone lo spreco di risorse a vantaggio di una società francese, che è la GI Events, che è quella che l'ha organizzato. Non è stato un buon esempio di gestione pubblica di denaro, perché lo ricordiamo, il Salone del Libro di Torino riceve anche molti fondi pubblici. E Baricco risponde: sì, è andata così, in questo gli editori hanno tutte le buone ragioni per protestare, ma non può essere il pretesto per trasferire altrove il salone. E come se ne esce? Lavorando di più e meglio. Se potessi dare un consiglio alla fondazione torinese che gestisce il salone, suggerirei di svegliarsi, non c'è tempo da perdere, occorrono fantasia, coraggio e anche un po' di cattiveria, perché hanno davanti duellanti molto agguerriti. Solo inventando nuove cose si può sperare di fare a maggio un'edizione che stenda gli avversari. Non so, non è secondo me molto edificante in realtà vedere per l'ennesima volta in Italia, perché è successo tante volte anche in passato, fiere che riguardano lo stesso settore si svolgono in città diverse e si autodefiniscono addirittura duellanti. Vi dicevo l'intervista di Raffaele Cantone sul Messaggero sulla questione dell'immondizia a Roma. Parla il presidente dell'anticorruzione: il caso dei rifiuti a Roma potrebbe essere oggetto di interesse della nostra authority, le scelte del passato le paghiamo oggi. Pagina 7 del Messaggero. A proposito di consulenze, si sta probabilmente per aprire un altro caso di consulenze a una società pubblica, in questo caso è l'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, cioè quella che deve controllare la regolarità dei nuovi farmaci, deve dare il via libera perché vengano commercializzati. Anche in questo caso ci sono molte maxi consulenze. Nel mirino di chi sta revisionando i conti ci sono parcelle per 667.000 euro percepiti dal direttore generale oltre al suo stipendio per la Corte dei Conti, che è appunto quell'organo dello Stato che esamina i conti di tutti gli enti statali. Non c'è un danno erariale, ma la ragioneria dello Stato chiede comunque di intervenire. Torniamo ancora, spostandoci sulla stampa, sulla discussione che è nata un po' dopo la partecipazione dei 20.000 musulmani, seguiti peraltro all'appello degli imam a fare proprio questo gesto, partecipazione di 20.000 musulmani alle messe cattoliche di domenica. C'è un intervento di Bruno Forte, che è un teologo ma anche arcivescovo di Chieti Vasto. I lettori del Sole 24 Ore lo conoscono perché quasi tutte le domeniche interviene sul Sole 24 Ore, che dice: ingiusto accusare Francesco di buonismo, il dialogo con l'Islam migliora il mondo. E dice: la visione del pontefice porterà dei frutti sicuramente a medio e lungo termine. Dall'Avvenire, torniamo un attimo sull'Avvenire, perché oltre ad avere naturalmente un po' di cronaca e approfondimenti sui raid americani su Sirte, ci parla anche della Siria. Anche in questo caso dovremmo forse ricordarci ogni giorno di aggiornare su quello che sta succedendo in Siria. Lo fa Federico Zoia. Aleppo in fiamme, è stato abbattuto l'elicottero russo, tra l'altro il velivolo aveva appena fornito aiuti umanitari, sono morte tutte le 5 persone a bordo. È una sfida aperta dell'ISIS, così è stata raccontata anche alla Russia. Poi c'è stato anche un video in cui si diceva qualcosa del tipo: Putin, attento, ti veniamo a prendere. E vedremo appunto se ci sarà una reazione altrettanto dura, magari con bombardamenti, qualcuno lo ipotizza già, dell'aeronautica russa. Un altro interessante articolo dall'Avvenire lo scrive Elisabetta del Soldato, a pagina 11, da Londra. su un effetto Brexit che questa volta non è economico, non è finanziario, ma è un effetto sui comportamenti delle persone. Effetto Brexit, due punti, crimini d'odio in aumento del 150%. Il fenomeno contagia le contee intorno a Londra. Nel mirino soprattutto i lavoratori dell'est. C'è per esempio la testimonianza di questo lavoratore polacco Romek: i miei figli vengono insultati ogni giorno a scuola. E c'è quindi stato subito convocato un vertice d'emergenza del neo ministro dell'interno Amber Rudd. Ci fermiamo però un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Ci spostiamo sulle pagine interne del giornale. Forse lo ricorderete, già ieri è iniziata questa pubblicazione, che durerà fino al 31 di agosto, degli articoli di Benito Mussolini giornalista, perché appunto Benito Mussolini iniziò come giornalista e questo di oggi è un articolo pubblicato dall'Avanti del 4 novembre 1913, che si intitola "Vogliamo fare la storia e non subirla". È un'iniziativa che forse desterà qualche reazione, anche perché per presentare questa iniziativa estiva del giornale, domenica sul giornale lo storico Francesco Perfetti ha detto che, al di là del giudizio della storia come uomo politico, Benito Mussolini è stato uno dei più grandi giornalisti del suo tempo, e quindi anche coerentemente, per dimostrare questa tesi, poi vengono pubblicati questi lunghi articoli, una pagina intera, pagina 17. Se volete quella notizia appunto che di Equitalia invece su Libero, con Vittorio Feltri, il direttore, che parla di questo problema, del fatto che Equitalia di fatto non farebbe il suo lavoro, cioè che è quello di recuperare le tasse non pagate, il rapporto della Corte dei Conti parla di 750 miliardi di tasse non recuperate. Nonostante il pugno di ferro, solo il 10% dei crediti fiscali affidati alla società delle esattorie viene recuperato. Vi dicevo della interviste che l'assessore all'ambiente Paola Muraro concede, una è al Fatto Quotidiano. Il titolo è "Denunciare le truffe sui rifiuti non hanno mai fatto nulla", perché quello, una delle cose di cui la si accusa, l'accusano le opposizioni in Campidoglio, cioè nella giunta romana, ma anche in Parlamento, e anche il vicepresidente del PD, nonché commissario del PD romano, Orfini, la si accusa, alla luce di queste lunghe consulenze, di essere in qualche modo corresponsabile del disastro dell'AMA. Ma lei appunto dice: in tutti questi anni io ho denunciato molte delle storture, non è mai stato fatto nulla, ho tutte le mail all'azienda in cui denuncio le criticità degli impianti, sono pronta a mostrarle alla procura e alla commissione antimafie, dimettermi, io vado avanti, alcuni parlamentari del PD mi mandavano sms di congratulazioni e ora invece mi fanno la guerra. Vi dicevo, l'inchiesta sul Cocoricò, la discoteca di Riccione, che era stata chiusa un anno fa perché era morto un ragazzo, è stata poi riaperta. Questo ragazzo aveva solo 16 anni, era un ragazzo di Perugia, e dopo è stata riaperta una volta fatti i controlli, ma l'inchiesta del Fatto Quotidiano dimostra che sia fuori dalla discoteca che all'interno circola ancora qualsiasi tipo di droga. Sono in effetti più duri i controlli all'interno, ma una volta entrati poi può succedere qualsiasi cosa. Una buona notizia tutto sommato dal Fatto Quotidiano sulla questione, forse ne avrete sentito parlare, che in Sicilia si paventava l'ipotesi di un maxi condono per tutti gli abusi edilizi da cui è falcidiata l'isola, però questo condono alla fine è stato bocciato. Gli alfagnani falliscono, perché era un'iniziativa appunto dell'NCD, falliscono il sacco e non salvano gli abusivi. Il presidente del consiglio regionale Giovanni Ardizzone blocca la sanatoria voluta dal cosiddetto cerchio magico del capo del Viminale, cioè il ministro dell'interno Alfano. Ma vediamo anche articoli così un po' meno legati alla cronaca. Sul Manifesto, per esempio, Maurice Lemoine racconta del suo viaggio a Bogotà. Bogotà è uno dei paesi, Bogotà capitale della Colombia, la Colombia è uno dei paesi sudamericani di cui anche qui forse dovremmo occuparci un pochino più spesso, come del Venezuela del resto, un paese in profondissima crisi di cui ogni tanto ci arriva qualche notizia. Ma in particolare sulla Colombia, che per anni ha avuto veramente una vera e propria guerra civile, nessuno sa se davvero è finita, guerra civile legata naturalmente al narcotraffico e allo strapotere dei narcotrafficanti, Maurice Lemoine ci racconta che nel dipartimento di Choco, sulle rive del fiume Cuya, la fitta vegetazione nasconde l'accampamento del fronte 57 delle FARC, la guerriglia colombiana protagonista degli accordi firmati a La Habana, che avrebbero dovuto appunto sancire questa pace definitiva, ma che forse in realtà non è, è sulla carta ma non nella realtà. Vi segnalo dal secolo XIX una notizia di cronaca, di quelle veramente che, siccome riguardano la medicina, lasciano ancora più, così, più tristi, secondo me, più quelle truffe che, appunto, riguardando la salute in qualche modo, che è una cosa sacra, la salute, come la gestisce il sistema sanitario nazionale, fanno ancora più indignare, ecco, tristezza e indignazione. Operazione della Guardia di Finanza a Savona, indagati 8 medici del Santa Corona di Pietra Ligure, che è uno dei più grandi ospedali di quella parte della Liguria, finti tumori per rifare il seno, cioè questi chirurghi, senologi, certificavano l'esistenza di un tumore per poter poi rifare il seno, cioè fare un intervento di chirurgia estetica a queste 100 pazienti VIP coinvolte. E invece, per giustificare la rinoplastica, cioè la chirurgia estetica del naso, venivano diagnosticati gravi problemi respiratori. Quasi la metà delle cartelle cliniche che la Guardia di Finanza ha sequestrato sono risultate alterate. E insomma, dimentichiamo per un attimo questa storia che, ripeto, secondo me suscita tristezza e indignazione, sia per i medici coinvolti naturalmente, perché queste cose venivano fatte in cambio di soldi, è chiaro, però a spese del servizio pubblico nazionale, e poi naturalmente per i pazienti che scelgono questa strada, se per di più erano VIP, quindi presumibilmente in grado di pagarsi un intervento di chirurgia estetica, invece lo fanno pagare a tutti noi contribuenti. Ma per, insomma, tornare a una notizia comunque positiva, o alla lettura di un articolo che a me è piaciuto molto, quello di questa maratona che vi dicevo, la maratona nel Sudafrica, che viene richiamata sulla prima pagina del Corriere, all'interno, a pagine 18 e 19, trovate veramente delle foto spettacolari, perché ci sono questi corridori con il loro pettorale, il loro numero, e davanti o dietro a loro ci sono gli animali, le giraffe, i rinoceronti, i bufali, le antilopi. La sfida dei 300 runner in Sudafrica, 42 km di corsa tra leoni e rinoceronti. Un'altra, sempre dalle pagine interne della Repubblica questa volta, sapete che a me sono un po' una appassionata di divulgazione scientifica, Elena Dusi ci racconta che la Cina ha vinto la gara del DNA ed è pronta a fare il primo intervento sull'uomo per appunto usare la modificazione del DNA su un uomo e non su una cellula in laboratorio. L'operazione verrà fatta su un soggetto malato di cancro ai polmoni, verrà usata questa tecnica chiamata CRISPR, finora applicata solo sugli animali, ed è la nuova frontiera dell'ingegneria genetica, e i medici che la stanno si preparano appunto a questa operazione. Così cancelliamo e riorganizziamo i geni di tutti gli organismi viventi. Inutile dire che sulla questione ci sono delle questioni di bioetica importantissime, perché una volta che si capisca davvero come intervenire sul DNA, lo si può fare a fin di bene o, diciamo, a fin di male. Il macro del Messaggero, che è l'inserto culturale del Messaggero, si concentra su una notizia che in realtà trovate anche su altri giornali, quella che viene definita la bufera che si è scatenata sul presidente del colosso pubblicitario Saatchi & Saatchi, Kevin Roberts, che sulle donne ha detto: in fondo non vogliono comandare, la maggior parte di loro non sono così interessate a raggiungere i posti di comando perché preferiscono una vita più tranquilla. Apriti cielo, si riapre il dibattito sui ruoli di responsabilità in un mondo che forse è ancora misogino. E quindi il titolo dell'articolo, che è scritto da Maria Letella, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono, ha condotto, adesso c'è la pausa estiva, ma ha condotto per nei mesi scorsi la trasmissione Nessuna è perfetta, che proprio in moltissimi casi si occupava delle donne che lavorano o comunque della conciliazione tra il lavoro e la vita privata. E quindi il titolo del suo articolo è Donne e carriera, perché no? E un'ultima segnalazione prima di lasciarci, dalla Stampa, una notizia ce la racconta Francesco Olivo: in Italia sono cresciuti del 15% i lasciti non destinati ai parenti, e il titolo quindi: eredi per caso, boom di testamenti solidali, perché in generale questi testamenti, appunto, al di là della cosiddetta legittima, cioè la quota che secondo il nostro codice civile deve comunque andare ai parenti a seconda del grado, questo 15% di lasciti a beneficio di associazioni e gente comune. Era l'ultima segnalazione per oggi, vi lascio a Ma cos'è quest'estate, il nuovo programma che vi terrà compagnia per tutto agosto con Elisabetta Fiorito, e ringrazio Peter Bescapè in regia e vi do appuntamento a domani. Ancora buon martedì da Giulia Crivelli.